c'è l'analizzatore piccolino di spettro, ricorda quello Iesu del ricevitore che avevo io piccolino, ho giocato lì, il 500 mi pare, sì, però ce l'ha. No, no, è carino, dai, tutto, se c'è Mario lucido anche per il monitor, lo puoi anche metterci un video, c'è un monitor esterno che sarebbe ancora, ancora più bello, sì, perché è troppo piccolino quell'analizzatore, però è una bella radio, sicuramente costerà una cifra, considerando tutte le funzioni che ha, però, ok, vediamo se già ne c'è ancora, io ancora qualche minuto poi devo andare a mangiare. Io già ci sono, sto rientrando verso casa, dai, adesso sarà Sant'Orsola. 9:15 lo superi. Cava cava, va bene, anda bene, va bene. E da te Marco. Ciao Gianni. Ciao. Ciao, che è entrato. Sì, già, 8 di segnale, però questo è secco un po', eh. Caffa, lo so. Tu sei secco. Ma che è Franco o Eugenio che è entrato? Avanti che vuole entrare. Ti ho salutato, avanti. A me sembrava Franco, forse Franco di Sorso. No. Tu hai attaccato adesso, Marco, no? Oh, un vecchio CB, lui. Avanti qua su 10 che vuole entrare. Eh dai, non entra, non entra, non vuole entrare. Che bagara, che bagara. Vabbè, da parte mia, tutto zona Sant'Orsola, in mezzo ai palazzi. Vabbè, io ti ascolto sempre bene, non ti ho mai perso. Ok, vediamo se l'amico vuole entrare, se lo riprendi tu Marco. Quindi non si è rientrato Natalino, stavo facendo il caffè, lungo sto caffè. Ah, poi un'altra cosa bella è calco, perché ho fatto simile carbonio mio, bello, bellissimo. Sì, a tua c'è una bella radio. Uno che vuole investire e non vuole prendersi una trefe, chissà, ti ripeto, costerà qualche diverse centinaia di euro la radio lì, sempre che venga importato in Italia. Comunque molto molto particolare. Ma hai aumentato qualcosa tu Marco? Beh, rispetto a quando sei entrato sono uguale, uguale a prima e non ho toccato nulla. Domani adesso sei 9:45. Ma perché prima quant'era? Prima era 9:40, tendente a 9:50 sei adesso. No, giuro Robè, questo è fisso, non puoi nemmeno, non è che c'hai le posizioni, non puoi toccare nulla. Ciao Lu. Anche Luca è aiutato, 9:40 arriva qua. Marco, non fare il furbo, dai, no, fare un furbo Marco. Lucrezia Borgia. Ciao Nini. Siete bugiardini tutti quanti, eh? Però sono agganciato, sì. Sono 50 anni fa, saranno 60, boh. Perché queste domande non bisognerebbe farle in frequenza, non siete furbi. Ah, cosa c'entra? Mica stiamo dicendo cosa c'ha, e poi se ti vuole zitare già ti zeccano, non sarà per merito mio o per demerito mio. Però mi raccolgo che i segnali sono più alti del normale. Ma vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Io ormai riconosco tutti i segnali, no? Non c'è da sbagliare, anche quando qualcuno dice non sono attaccato, dico ehi domani, però attaccato può essere anche che uscire con un watt, può uscire con 5 o con 3 per essere generalizzati, dai. Però già me ne accorgo, ormai li ho tutti memorizzati. Vabbè Robè, quel famoso zip che fine ha fatto? Allora, quello zip, se viene in officina, alla forza di lasciarlo smontato, l'ho portato da un'altra parte. Perché ci voleva, il carburatore c'era tutto quanto incollato, tutto proprio, no, non c'è stato verso di coso, c'era il galleggiante, tutto quanto, alla fine me ne hanno dato uno nuovo. Ed è sempre fermo da piazzare, ci credi? Allora alla fine l'ho portato a mezzo piede e l'ho portato da un'altra parte. Quando ci avrò 5 minuti di tempo se ne parlerà, ma perché ancora ti interessa? Perché sinceramente di darlo Luca, sono un po' dispiaciuto, era una persona che ci tenevo, ma qualcosa si trova su internet. Ma se lo vendevi poi, non lo so, stavo sempre aspettando da te la risposta tua, dipende tua decisione. C'era un momento che va bene, allora, poi l'ho visto, mi stavo un po' di nuovo appassionando, ho detto ma gira me lo dai, se mi viene ripeto, vorrei piazzato il carburatore e messo, non lo spiloccone, c'è una specie di affare in plastica, che è vicino, dove c'è il comando dell'acceleratore, c'è un bilancino, una cosa del genere, che quello lo devo prendere nuovo, perché è tutto secco, a forza di rimanere ferma con la benzina, se si cade. Avanti Gianni. Io sono quasi arrivato a casa. Penso che ti stia arrivando discretamente. E segnale di casa tua, cioè 9:20 qua. Va bene, va bene. Buona questa antenna. Quanto mi arrivi già? Cosa? Quanto non mi arrivi? davanti di un golf. Ma dove sei già? Il chilometro. A chilometro? Vabbè, ci devo andare più vicino. Sì, vabbè, poi c'ho qui in macchina, però. Vabbè, signore, io vi lascio, che vado a mangiarmi qualcosa. Saluto a tutti, ciao Luca, ciao Gianni, ciao Marco, Antonello e chiunque ci sia in ascolto. Io vado in QRT, ciao ciao, grazie del QSO e saluto anche eventuali amici in ascolto, come ho detto prima, ciao ciao. Ciao Robè, ciao, buon QRT, grazie per il QSO e ci sentiamo. Avanti Luca. Ciao Robè, alle prossime, avanti Marco. Ciao Roberto, buona cena e alle prossime. Chi ci è rimasto qua? Ci siamo rimasti io, tu, Ale Rose e Luca. Bene, anche Antonino, vabbè, questa è l'ora di cena, adesso vanno tutti a mangiare. Chiappa. Stanotte fatevi sentire, dai, che ieri oggi non c'è, se non c'era nessuno. Sì, ma di notte non fa, io o mi guardo film miei oppure usciamo con gente. Per distrarmi un po', ho già, se no qua stando a casa sempre appresso a mamma, è alienante. Lo so, va bene, dai, già ti capisco. Io te devo dire, Marco, c'è mamma che ha bisogno di essere fatta in bagno anche di notte, ti chiama. L'avevo capito, lui, anche che era stata poco bene. E siamo, infatti, perciò ho detto l'altra volta, siamo un po' tutti nella stessa barca, me. O comunque ci siamo passati tutti. La vita è così. Sento roba di fondo, propagazione, corremme, segnalini, segnaloni. Vabbè ragazzi, io vi saluto, sono arrivato, grazie per il QSO, magari più tardi se ci siete provo a accendere, vediamo un po', dai, ci sentiamo dopo. Ciao! E io Gianni. Ci sentiamo, dai, quando capita. Buona serata. E Luca, dai, anch'io chiudo, tanto non c'è più nessuno. Ci sentiamo. Buona serata, buon proseguimento. Ciao. Ciao Gianni, ciao Marco, buona cena, alla prossima, ciao. Sì, non si capisce niente. E adesso si capisce? Sì, si capisce, però ho capito chi sei. Torino. Torino? Se te l'ho messa nella sua persona. Pensavo uno di fuori. Com'è la radio, buona? Sì, ma c'è ancora un po' di eco. No, l'ho tolto. Però fa un passaggio più lungo. Ora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Sono liscio, liscio, liscio. Oh, già è buona, non sembri tu, però già sei più giovane con questa modulazione. Oh, che bello, sono rigiovanito di 10 anni. Oh, già è chiara, che radio e che microfono soprattutto. Un SMI è precompresso al palmare, normalissimo come microfono, sul Galaxy. Ma ho capito, il presidente della radio? No, Galaxy. Ah, K. Oh, stai andando bene, è molto forte, molto amplificata. K. E come segnale? Roma. Ora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Superi i 9,10, sei quasi 9,15. Aspetta un secondo. Adesso sei 9,15 ma sei Saturno, non ti toglio la radio. Capito, insomma. Niente, devo lasciare proprio la potenza in uscita dell'apparato a 4 watt al minimo. Ah, va benissimo, il segnale è perfetto, ottimo, modulazione è perfetta. Va bene, è inutile che sollevi, tanto guadagni poco a poco e ti distrugge la radio. Conviene lasciarla così, dai. Sì, mi ha detto anche un'altra persona che una bella radio forte, mi ha detto, come i vecchi tempi quando avevo stesso il Galaxy. No, davanti è pure troppo forte, per i miei gusti. Addirittura. regolate, avevo il volume regolato a quelli che c'erano prima, e tu sei un po' più fastidioso, nel senso più forte, devo abbassare, attenuare un po' il volume. Ecco. Niente, mi sto facendo tutto l'illuminazione con i pannelli fotovoltaici. Almeno risparmio energia, no, è una bella soluzione, anche io qualcosina la stiamo facendo anche noi. Io ne ho preso 3 da 100 e 1 da 200, e ne ho 4 pannelli. Almeno sono soldi, come si chiama, spese bene, risparmio energia elettrica, non è problema di niente, il futuro è quello tanto. Sì, ma in effetti io accendevo dunque fuori, avevo 5 lampade a LED, vabbè consumava poco, però sempre consumava, più 2 per fornire, 7 posizioni di luci. Mi sono rotto le palle, allora con niente ho preso quei paletti di vetro rigido alti 2 metri, palo in ferro piantato in terra, messo poi il bullone lungo, messo poi con lì sopra, quello lì diventa 4 metri e tutto il fotovoltaico sopra in punta. Ma la luce che mi fa, Roberto, sono troppo contento. I pannelli sono da 100 watt. Allora, ne ho 3 da 100 e 1 da 200 watt. Stai attento al vento che non si avete riporti via, bene. Che cosa? I pannelli che siano fissati bene. Sì, a voglia. E come sono fissati? A parte che l'ho messo anche il bullone che passa da parte in parte col tubo di ferro, poi da strato, sono bulloni veramente zingati, non diventa mai luce, ma gli ho messo anche il naso vulcanizzante, il tirante, se no balla un pochettino, capito? Non è tranquillo per quello. E le cose della lampada quanto sono? Quante volte sono? 50? No, sono proprio le lampade da 100 watt. 100 watt a LED e i pannelli da 100 watt? I pannelli per 100 watt, sì, 3. E uno da 200. Con 200 lo piattello domani. E quindi sono belli grossi, non sono piccolini i pannelli. No, sono grossi, cavolo. So ciò che io ci sono stato, lo dico balle, 2 ore per cercare di fare modifiche per mettere proprio il pannello solare, perché è un casino, capito? Sbagliavo, no, così è troppo debole, così non va bene, così con, insomma, tra piazzare e spiazzare, tutto quanto ci ho messo un paio di ore, adesso ormai c'ho già il modo di fare e lo faccio più in fretta. Ma fammi capire una cosa, tu c'hai un pannello solare, poi c'hai un'unità di controllo e la batteria per accumulare la corrente, così? Allora, ho il pannello solare che metto in auto a tutti. Sotto c'è il faro indipendente che va attaccato al pannello solare con la tipo baionetta. Sì, la notte cosa fai? Non ho capito, da cosa lo alimenta? Durante il giorno tutto il sole. Come diventa buio, rimane acceso tutta la notte. 12 ore acceso addirittura, io l'ho programmato per 8 ore ma quanto pare molto di più. Ho il telecomando comunque. Quindi c'è un accumulatore questo pannello di corrente. Cappa. Infatti non riuscivo a capire quello. Guarda, da Brico me l'ho comprato 39 euro, ne ho preso 3. E quello da, ho preso da 200 watt, ho pagato 59 euro. Io ho visto, ormai adesso stanno calando tantissimo i prezzi dei LED. È come i televisori, ti ricordi i primi televisori LCD che portavano 1200-1300 euro, un 32 pollici? Adesso l'ho visto a 99 euro, per dire, lo stesso televisore come dimensione. Se li stanno regalando così i LED, 10 anni fa li pagavi una cifra spaventosa, adesso che sono in grande produzione sono scesi tantissimo i prezzi. E così speriamo che scendano anche i pannelli solari. Caffa. Ma io infatti ho preso l'anno scorso il televisore da 60 pollici, che lo faccio in parete, è bellissimo, l'ho pagato 450 euro. Cacchio, è pochissimo. Roger. In effetti sono troppo soddisfatto, in camera ci ho messo ancora da 40 pollici. E niente, quindi non i pannelli sono troppo soddisfatto, vabbè, è la fine del mondo, guarda, non consumo più corrente, rimane tutta la notte acceso, io pensavo che si spegneva alle 2 o 3 mattino, boh. Mi alzo alle 4, 4 e mezzo, andare per il bagno, guardo, acceso, il capita, mi alzo alle 5 e mezzo, 6 meno quarto, acceso, boh. Come ha fatto luce, puzza, aspetto, caspita. Ma c'è la crepuscolare pure per te? Sì, c'è la crepuscolare all'interno, perché automaticamente quando diventa buio si accende. Giusto, quindi auto no, io ne ho preso uno piccolino per dare deterrente qua dietro casa mia, all'interno dove c'è il cortile, perché stanno circolando i zingari, è meglio lasciare, metto il sensore di movimento, come se si avvicina un po', vengono disturbati perché stanno rubando tutto da tutte le parti. Cavolo, no, qua c'ho telecamere, cancello, c'ho tutto, aiuto a vedere qua vicino a me anche Roberto, no? Sono pieno di gente qua, poi giro stesso c'è Antonella, poi c'è Vittorio giù, io sono pieno circondato di gente adesso, tutto a posto. E niente, ti rubo una cosa che, no, le luci sono troppo soddisfatto, domani finisco col pezzo di fare. E ho messo già il tubo già piantato, allora ho preso il tubo di innocenti, quello a 2 pollici. Una mazza l'ho bello ficchito in terra, roba di 60 centimetri. Poi ho messo un altro tubo che entra dentro il tubo innocenti, che è alto 2 metri qualcosa. L'ho bloccato, poi ci ho messo il tubo in vetrolesi da sopra ancora, tu pensa che è questa cosa? Quindi è una cosa molto alta. Scappa. No, io pensavo fosse l'altezza dell'uomo. No, no, no, no, le ho messe alte. E dirò io, giorni fa, prima di comprare queste qua, sono andato con il negozio Max, come cavolo si chiama, un nuovo nel negozio che prende Cinisi, vicino a Insiti, e ho preso queste 2 pannelli solari con le luci, tutto unico, no, come queste qua, c'è il fotovoltaico a parte, poi il faro, no, tutto unico. L'ha giubilato, vabbè, una schifo di luce, e faceva luce solo lì, su quel punto e basta. No, no, no, non mi piace. Eliminate, le ho comprate come si deve, sono come contento. Sì, sì, l'ho presa anche io questa notte di cielo, ma io le ho messi un pezzettino stretto, un passaggio di persone, sarà 2 metri di larghezza, 2,5 metri, per cui non ho necessità di grande luce. Quelli che hai messo tu, già li ho visti da Bricome, fai del numero di luci. Sì, ne penso troppo soddisfatto. Io sto cercando se di capire come, se riesco a trovare il cavo, allungare il cavo, vabbè, ho fatto 13, consumerò solo la corrente per la televisione e il frigorifero, perché la luce in casa mi metterò tutto che funziona da fuori. Sì, no, ma è futuro, è così. Adesso stanno diminuendo tantissimo i pannelli, questi pannelli li vendono anche flessibili, leggeri, noi le montiamo nelle scampe, ma prima costavano una barca di soldi, e adesso li trovi, diciamo, un pannello da 100 watt lo paghi discreto, senza prendere roba eccezionale, lo paghi, diciamo, un'ottantina di euro. Quelli nuovi, morbidi, leggeri, perché quelli vecchia generazione sono pesanti, la resa, diciamo, a parità di superficie è molto inferiore, anche se devo dire quelli policristallini, quelli vecchi, hanno il vantaggio che basta appena appena di luce, anche tu con una pila illumini e stanno dando l'energia, mentre questi nuovi, monocristallino, deve avere una giornata soleggiata, se c'è appena di nuvola non funziona. Ma a me ho visto che ha caricato lo stesso, che ha fondo veloce, quindi ma poco poco. Dire una cosa, io c'ero anche stasera, amico, non so se sì, da molto senza andarci. E dove sono questi pannelli solari, eccetera? Ci sono dei pannelli mostruosi, belli, enormi, così possono dire 2 metri di altezza per 1 metro, giganti. 200-300 euro, una cazzata. E io sto facendo un bel pensiero, mi sa, con l'inverter poi dentro ci metto tutto quanto e mi faccio l'energia in casa senza consumare corrente. Aspetta, consumo solo per il frigorifero e il televisore. Già li ho visti, te ne metti un paio di quelli e sei autonomo, magari certo non ti attacchi il forno a microonde, il coso, la lavatrice, però per tutto il resto, televisore, se devi fare qualche operazione di cose, senza grossi kilowatt di assorbimento, fanno più che bene, te ne metti un paio con quelli e ti fanno un paio di kilowatt, 1,5 kilowatt. Sì, io ho il giardino abbastanza grandetto qua, ci metto, faccio un bel cavalletto, ce l'ho rimato sopra, un po' alto così. Sì, ci stavo facendo un pensierino, penso che c'ho un po' di soldini in più, lo potrei fare tranquillamente a occhi chiusi. Ma adesso provo con questo qua, con l'illuminazione, e mi piace così. Ti ero troppo soddisfatto, Roberto. veramente, è bello, bello veramente. Ogni luce ben magica. Ma a parte la luce, ti dà sicurezza, nel senso, vedi se devi muoverti la notte, devi andare a prendere qualcosa. Avere luce, l'ho fatto a casa di un'amica mia, gliel'ho messo tutto intorno alla casa. Era buia, lei abita nella zona di Canica, quelle zone lì, era tutto buio, gliel'ho piazzati tutti i punti strategici, il pezzo d'ingresso, un angolo della casa, tutto in giro, tu la vedi illuminata, sembra una sargassa. Poi spegni tutto, sembri la nostra tomba. No, io spiego tutto, anche le quelli che ho fuori a LED, le bocce ho messo a vetroreggere, le palette, funziona tutto, funziona. Però non li accendo, perché ho questi qua adesso. Dirò che io, anche accendendo quelli esterni, senza questi che ho messo, dove c'è la macchina mia, fuori al cancello non si vede nulla, proprio ombra. Io ho messo uno vicino al cancello, cavolo, alto, e io vedo la macchina, lo vedo fuori, è tutto illuminato. E dove ho trovato quella 200 la vicino stesso. È tutta un'altra cosa, dai. Dove c'ho la baracca che ho comprato, quella verde, bella, con i panini scorribili, la porte, e ci ho messo anche quell'attrezzatura che dentro. Ripeto, lì ho messo anche un altro, e tiro c'è una luce, e là era un punto scuro proprio, adesso è sempre luce. A meno che accendo quelle a LED, quella più vicina, ho messo con le schede rotonde. Però io voglio evitare perché consumare. Io tengo le luci accese tutta la notte, con i fari, non pago niente perché ha accumulato tutta l'energia solare, sono a posto. Infatti quando carico la mattina vedi il lampeggio rosso, quando è carico si accende verde, fisso. E quanto ti è venuto il gioco? 39 euro. Ma scusate, ma 39 euro il faro e il pannello? Tutto compreso, nella scatola c'è. Cioè con tu, con 39 euro ti ha dato il faro e il pannello solare? Cappa, se vuoi ti faccio la foto io te la mando. E rimane tutta la notte acceso? Tutta la notte, io mi sono meravigliato. Poi tra 3-4 mattino era ancora acceso. Poi mi sono alzato circa le 5 e mezzo, acceso. Ogni tanto guardavo, sempre acceso. Come ha fatto luce, pum, si è spento. Ed era rosso lampeggio all'interno sotto il faro. Poi verso mezzogiorno era verde, carico al massimo. Non avevo visto, io pensavo stessi parlando pannello solare e più il faro a LED da un'altra parte. No, no, nella scatola c'è il pannello solare più c'è il faro, che hanno tutti e due un cavetto, quello del pannello solare più lungo, quello del faro più corto. Quindi, e poi cerca di mascherarlo, nasconderlo col capo, capito? E poi entra maionetta e poi c'è la vite che si avvita. Io l'ho messo a pre testa in giù, cioè giustamente dove vita, perché se piove almeno se non si sa mai troppo di acqua, non entrerà, però per sicuro ho messo a testa in giù. E quindi è tutto completo, con 39 euro tu c'hai l'illuminazione. E io perché ne ho comprato 4 in tutto? 3 da 100 e 1 da 200. Allora certo, mandami la foto su WhatsApp che sono curioso. Dammi, come ti posso dire, un minuto, sto facendo tutto, te l'ho mandato, poi ce l'ho qua in camera, aspetta. Nel frattempo facciamo una chiamata sul 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti sul 10. Ci sei? Sì, eccomi. Ecco qua. Allora. Te lo sto inviando. Invio. Ho inviato, c'è un baffetto solo però. Ma ce l'hai staccato cosa? Ma chi l'ha mandato? Sommato, che casino che ho fatto. Oh, me l'hai mandato, questo 200, c'è scritto, c'è il faretto, il P65 e un pannello solare. Questo qui costa 39 euro. No, questo qui è da 200, costa 59. L'altro da 100 costa 39 euro. Vabbè, è stato un bel prezzo. E quanto è grande questo pannello di dimensione? Quanto è quella scatola? Vabbè, la scatola è grande in mano, quanto sarà, 20 cm, 30 cm? Beh, misurato posso dire adesso, più o meno sarà 30-35 cm circa. Ma no, il prezzo è l'ultimo. E l'altro costa di meno, quello da 100 watt. Sì, io ce l'ho sotto l'altro da piazzare, 100 watt, se ne ho due sulla sedia. No, non si vede, se vede solo uno se ne vede qua. E io perché ho mandato la foto a un altro? Perché io sono aperto. Ah, il mio ex collega dice che lo cancello, sta qua. Insomma, dice, hai visto che mi ha mandato un pannello? E c'è anche il crepuscolare incorporato. Sì. Ma no, c'è il temporizzatore, lo puoi anche temporizzare questo. Cioè non ho capito. C'è il temporizzatore, per dire, tu lo vuoi fare accendere alle 5, per dire, da mezzanotte alle 5 del mattino lo puoi fare accendere. No, questo non te lo... Io ho il telecomando però, che tu lo puoi bloccare, puoi spegnere, puoi accendere quando vuoi tu. Quindi da casa, per dire, ce l'hai fuori il faretto, lo vuoi spegnere, a un certo orario te lo spegni. Sì, sì. Oh, molto interessante. E questo costa 59, questo grande. Sì, 59 quello grande. E 39 l'altro da 100. Guarda, ti faccio la foto del quello da 100, che lo metto sopra la tua scatola, aspetta. Te l'ho mandato, Robè. Sì, adesso sto guardando. Ma non cambia quasi niente tu lì da uno all'altro. Le dimensioni sono più o meno uguali. No, perché qua la scatola è più stretta, quella da 100. Mentre l'altra è molto più larga, capito? È più grande che il pannello. Ma il faretto di dimensioni sono simili o quasi o più piccolo? No, leggermente più grande il faretto da 200. Poi c'è anche, vendono anche quello da 300, ma costa 98. No, no, interessante. No, questi non li avevo visti. Andavano a ruba sicuramente. Cappa, sì. È vero, beh, ci sono anche scatoloni già pronti per rimpiazzarli, perché automaticamente le stanno sempre vendendo. Sì, sì, ma tu sempre la solita casa abiti, tu ne hai cambiato? Io so, dove conosciuto tu che sei venuto qua. Ma un periodo ti eri spostato o ho capito male? Sì, mi ero spostato a Boriamar, però lì non potevo piazzare l'antenna, non prendeva il segnale il telefonino, e se mi chiedo mai cosa devo fare, no, io. Era molto bellissima come villa, diciamo, ero dentro un coso, un villaggio, e quindi c'erano delle regole che a me non piacevano, e allora niente, sono ritornato qua. Vabbè, c'è una bella zona dove sei tu, molto, molto luminosa, cioè c'è un bel panorama, è bella, a me piace. Noi più avanti abbiamo la campagna all'interno di San Camillo. Ehi capo, no, sono anche in posizione alta. Guarda Robè, per avere l'antenna che ho pagato 60 euro, quella Veno come cavolo si chiama, è troppo, esce troppo bene. Con quell'antenna stai uscendo. Cappa. Ma tu non avevi cosa? La Mantova prima, che antenna avevi prima di quella? La Mantova, anche la coso avevo, non mi ricordo l'altra. E avevo preso la CBC, 50 di onda, poi l'avevo data, poi ho preso la Mantova, ma me l'avevo data, era mezzo incasinata, capito? Poi si è rotta del tutto, buonanotte. Ma tu adesso stai uscendo liscio? Io sono liscio liscio adesso. 9 più 15, il segnale è ottimo, per dire dove sei tu, sei andata alla grande. Allora, l'antenna non è più dentro, come tu l'avevi vista, però ce l'ho all'esterno, perché me l'hanno fatta mettere 3 metri più di salte fuori dal recinto mio. Ma l'hai alzata? È un po' più alta, poco a poco, ma non molto. No, no, stai andando alla grande. Per essere lì stai andando veramente bene. Sì, ho fatto il plinto, ho fatto... Ci sono due quintali e mezzo e calcestruzzo. No, no, va bene. Anche tutto il resto va bene, anche la radio, la modulazione. Molto, molto chiara e pulita, forte. E sono soddisfatto, diciamo, per la posizione che sono, l'antenna che non è che sia una grande antenna, però mi faccio sentire, dai. E com'è il segnale, il mio di lì, come ti arrivo io? Tu sei sul 30, 9 più 30. Col Galaxy. K, ma il segnale è ottimo, questo qua è giusto, dai. K, va bene, ma va bene, non ne dubitavo, se arrivi così forte tu, io qualche cosina un po' più di te, cioè, e sono più in alto, dovrei, ed è giusto che arrivi un po' più forte. K. Io sono dove sono, già lo sai che tu mi hai visto dove abito, quindi per me ce n'è fila per i pugni. Anzi, io ero convinto che da qua, mettendo l'antenna, uscivo basso. No, te devo dire, secondo me è migliorato. Rispetto a prima? Qualcosina è migliorato. Se mi hai detto che sei liscio, secondo me è migliorato. Sì, sì, liscio. Io sono 3 metri, o fanno anche quasi 4, dai. Dove era l'antenna mia, più indietro. Fuori dal recinto mio, proprio dietro. Dove posteggio la macchina, dovrei posteggiare. Ciao, già va bene. E sono venute famiglie nuove adesso. Cappa. Era anche un CB questo tempo addietro. Roberto Pinna, quello che c'è in baule di via Montegrappa. Non lo conosco, certo. Io, fratello di Antonio, che Antonio mi sembra che è morto, molto, non mi metto più. Aveva la molazza croce bianca, ce l'ho provata anch'io, tantissimo tempo fa. Ma più di 20 zicane va. E niente, con la famiglia sua, c'ha 4 figli, 2 vivono con loro indipendenti, hanno la compagna, eccetera, eccetera, o sposate, non me ricordo. E lui vive con 2 figli qua. C'ha un cosa, un cagnuzzo piccolo, che è un Jack Russell, proprio originale, e viene a rompere le palle qua perché c'ho anch'io il cappellino, il piccolino femmina, lui è maschio, viene una messa in cita una volta, lo sai, usciva la mia e per quello, da quella volta ho alzato le cita così non esci più. Oh, non lo conosco a Roberto, tutta la famiglia lì, c'era anche uno gli era molto fratello, chi era? Riccardo. Non me lo ricordo. C'è capelli bianchi, bianchi Roberto. Ha tanti anni, solo lui salutalo, già mi ricordo. E poi c'avevamo un amico, lui era un amico carissimo, un amico carissimo mio era amico suo, lo stesso carissimo. Poi già Giampiero, tutta la famiglia conosco, ma da tanti tanti anni, da quando c'avevano la croce bianca pure. Sì. Giulia, vabbè, sono passati tanti anni. Hai già bene, vabbè, ma la baracchina no, non ho più nulla. Te lo regalo io per i tre canali. Ti do l'antenna che c'è un arrigo, te la piazzo e ti do il trasmettatore in moto. Lagami i bicchini, non fa casino. Lui stavano poi in via Principessa Maria, qualcosa c'avevano lì. Cosa? In via Principessa Maria, mi sembra che c'erano gli uffici, se non sbaglio, tanti anni fa. Ce l'ha ancora, infatti. Giù. Oh, sono tanti anni che non lo vedo, Mari. Sempre grosso. Cabumanno. No, è molto magro invece, sta bene. È dimagrito, era grosso prima. E adesso è magro invece. Sì, quando era ragazzino era grassottello lo stesso. Adesso ha dimagrito un bel bianco. No, ma è troppo più serio, dai. Aveva una cosa di bere, un cespuglio di bere, ma lo ricordo. Sì, c'ho un bel capelli bianchi, non più di me. No, in gamba, dai. Già tanti anni che non ci vediamo, ma già un bel ricordo, dai. Anche del padre, tutta la famiglia, dai. Il padre, mi ricordo che avevamo recita la compagna sua, che il padre aveva già 70 anni. E c'erano poi i fratellati, era tutto un giro, dai. E niente, ce l'ho vicino a me, prima ce l'ho Filiberto, poi sono andato via, Filiberto è venuto lui a abitare, adesso c'ho la compagnia pure. E via, e vabbè. Comunque sono tutto circondato, più giù abito una ragazza che è divorziata, con due figli, giovane. E chissà, ogni tanto me la guarda, la saluta, ciao. Vabbè, bella ragazza. Cappa. Eia. Ma dove sono andato a abitare? Dove c'era quella casa vuota? Più su di te prima delle vacanze, di lì sono. A Roberto più su di me. Mentre quella ragazza è più giù dove c'era la scala esterna e sale sul primo piano. Meno male ci siete voi vicini, perché una ragazza da sola a fare di lì, mamma mia, se ci corre già gli antiloffia. No, hanno messo due fari più grossi di miei all'esterno, sia quel palazzo che dove c'è il fotovoltaico e illumina tutto fuori all'esterno, illumina. E io sto copiando da loro, infatti, e illumino anch'io. E poi quando c'è gente vicino, con la sicurezza per qualunque cosa, che dire, lo sai come circolavano gli zingari in quelle zone lì, in quelle campagne, poi magari trovano una famiglia sola, entra e fanno tutti i colori. Ma io ho i cani che basta che cade un'oliva, mi stanno già abbaiando, un casino. Se ne accorgono subito, perché io i cani me ne tengo anche dentro, giustamente, perché fuori non so mai che scappa, allora per la sicurezza. E quando fanno un casino che sono in cucina, io apro la porta di ferro, loro escono e ammazzano il topo, perché poi sono anche topolone. Ma la piccolina, quella che assomiglia a Jackie Russell, la mia, c'è sui rimbalzi 3-0. L'umicidio, con un facemo saccato l'ammazza. È meglio così, almeno ti ammazzano questi esseri infestanti. E tu pensa, quando si avvicina a sua vittoria, a chiamarmi, fai un casino a Magenni, perché non lo conosce. Quando invece viene un'amica mia, nulla, non la paia. Ecco, te prega, la conosce. Idolo, non lo buvi, comincia a mangiare, fate un casino. Me ha saltato, quando era vicino al cancello, suo Vittorio, ma tu non mi credi, Vittorio si è anche associato. Ha superato quasi il cancello saltando. Piccolino, ma infatti si è meravigliato. Ma comunque. E niente, tutto sommato sì, siamo tutti vicini, succede qualcosa, non c'è problema. Io sono un tipo che o sono leggero, sono sempre sveglio, trovo in bagno, qua, là, perché quando sei in pensione cosa fai? Mi ho da fare, vedi, fare questo qua, quello, quell'altro, mi ha chiamato amico mio, gli ho fatto il giardino, gli ho fatto il cancello, gli ho messo il fotovoltaico anche a lui, insomma, all'interno mi faccio qualche soldino extra, eccetera, ma stare fermo no, mi annoio, e allora per non annoiarmi, arrugginirmi, mi buco a far fuori tutto. Angelo, bello che sì, è giusto, ci mancherebbe, se no invece quello che non è invecchiato in 10 anni invecchi in un anno. E allora, c'ho mio zio che davanti a pensione, per carità, non riesce neanche più a camminare, e mio zio ha detto, mi ha fatto dalla pensione alla sedia, non si è più muovito. No, va bene così. A me, guarda, l'età che ho io, vabbè, io all'altro anno faccio 70 anni, mi. Sono già 2 anni in pensione, tiro una cosa, non me ne dà nessuno l'età che ho. 70, pensavo di meno, complimenti. Ce li ho, del 54 sono, settembre, cioè, 28 settembre. Non me ne dà nessuno. Vabbè, è importante poi sentirsi sereni, sani di mente e possibilmente anche di fisico. Ma non ho capito, siamo sopra proprio latti forse. Ma chi è entrato? No, io ho mollato e c'eri tu parlando. Oh, io non stavo parlando nessuno quando ho parlato di me. Ho detto, l'importante è stare sereni, sia di mente che di fisico. Sì, per quello. Però sempre in movimento, quello sì. Non sto mai fermo, faccio una vita molto movimentata. In casa ci sono e non ci sono, capito? Poi la notte ci sono sempre, quando fa buio sono già a casa. E niente, invento ogni tanto cosa fare, cosa non fare. Ce n'è sempre da fare comunque in campagna, stai sempre cercando di modificare, fare quello o quell'altro. Guarda questa soluzione dei pannelli fotovoltaici, guarda Robè, se te li copri hai fatto 13. No, non li avevo visti questi, avevo visto i pannelli, quelli grandi e poi fare separatamente, ma così completi, nel senso che piazza e vai, non li avevo visti da Bricome. Sì, sono in fondo sulla sinistra. Io c'ero anche stasera, mi sono preso quella e ti dico cosa mi è successo. Allora, spazzolando su Facebook ho trovato questo che vendeva i fari, come ce l'ho io così qua, da 100 watt a 30 euro, cavolo, io lo pago 39, quasi quasi risparmio 9 euro, sono buoni, da 200 watt 50 euro, e la 59, quindi scrivo, ne ordino 2, 100 euro, ok, se non che mi arrivano GLS, e mi hanno chiamato, guarda che sono mi posso valere a ritirare l'operaio, no, guarda, vado io a ritirarmi, ok, vado lì, mi presento, questo veramente simpatico in gamba, questo ragazzo che lavora lì, ha detto pannelli fotovoltaici eccetera, da 100 watt, no, 201 sono, guarda, nella scatola c'è scritto 100, e non ti fidare, ha detto, io forse che a te non sei fidato perché guarda, viene da Napoli. Ha già mai dato, no, se spendere 100 euro e messo da 2 da 100 watt che fanno 200 secondo Luca Budetti, ascolta, rimandalo indietro, poi quando mi telefono già glielo dico io, sono andato un po' incangolato da amico, ma ho comprato quello da 50, da 200 watt, 59 euro, adesso a posto, tranquillo, adesso li ho fatto tutto fare. Certo, almeno sei sicuro che quando vi piace sono quelli. L'altro giorno un amico mio mi manda un'immagine, non l'altro giorno, sì, ieri proprio, lui c'ha una macchina che stiamo restaurando in un Porsche, di vecchia del 65, mi pare che sia, è il 65, e ha visto, guarda Robè, cosa ho trovato, guarda, lui c'ha la versione targa, quella con l'artoppo, cosa ho trovato, guarda il prezzo, 137 euro, ti danno il tettuccio, ha detto, vabbè, lui, oh, vedi, gli hanno messo la fotografia del tettuccio intero, col pannello, bello, tutto rifinito, ha detto, guarda, bene, guarda, oh no, è tutto così completo, vai, ma alla fine l'ha già fatto leggi tutto grande, non vedi che ti stanno vendendo solo il rivestimento all'interno, il pezzo di stoffa interna, per quel pezzo mica ti danno tutto l'artoppo intero, e del gufito, oh mi gufi, stai attento che nessuno regala niente. Guarda, ti sono mandato 2 foto, cioè quelle sfere sono spente, solo sui pannelli, guarda la luce che mi dà, sono già mandati Roberto la foto. Aspetta, ma questo è in diretta, Questi sono i pannelli, praticamente uno è vicino al cancello e l'altro a tutta la parte opposta dove c'è la casetta verde. Ma l'hai fatta adesso la foto? No, l'ho fatta ieri quella lì. Ah, che numero al giorno? Adesso ho fatto, diciamo, stasera ho fatto quella che c'è vicino alla no, vicino alla casetta verde, se ho finito pure di piazzare. No, numero parecchio. E ne devo permettere altre due, quello da 200 e un altro da 100. Tu figurati cosa diventa qua dopo. Figurati, c'hai lo stadio acquedotto quando ho bisogno di concedere. Sebbene Manuele, vanti, e cos'è? Un aeroporto in occhio? No, interessante, perché io lo dobbiamo mettere in un posto dove non ci siamo noi, è meglio che far vedere che c'è gente. Cappa. Io non riuscivo a farlo caricare, e cos'era? Dovevo schiacciare auto il telecomando, non lo sapevo, poi ho letto e ho schiacciato e si è messo a caricare, meno male. Ma poi se mi hai detto che si rimane così a lungo accesa è di lusso. Guarda, non dico balle, io lo quando diventa buio si accende. La mattina, sì, quando non diventa luce, è sempre acceso. Io l'ho programmato per 8 ore, perché il telecomando c'è 3, 4, 5, 8. L'ho messo 8 ore e niente, sempre acceso. E poi si spegne da solo, non mi pare vero, c'è un crepuscolare senza ombra di dubbio. Cavolo, tanto è quindi. Sì, ho fatto il conto, dalle 7 di sera, le 8, le 9, le 10, le 11, le 8, le 1, le 2, le 3, 4, le 5, le 6, e sono già 11 ore, 11, 12 ore, ma è acceso. E quanto ci ha messo a farlo caricare il circuito? Ma ti dirò, guarda, un picco balle che io lo controllavo ogni tanto, 3-4 ore carico al massimo. Cavolo, buono. Tanto il giorno mica ci vedi, non ti interessa la luce, capito? No, sono troppo contento, vabbè, a parte scherzi, guarda, io ho fatto una spesa unica, l'ho speso. Sono 3 da 100 che sono, fanno 40 euro, sono 120 euro, più quello 59 fanno 60 e sono 180 euro. 180 euro ho la luce che risparmio una vita di luce. Ma poi il LED rispetto alla lampada normale sono eterni e durano una vita. Non sono fastidiosi perché la luce è poi luce bianca, no? Sì, luce fredda. E poi non scalda, quello vuol dire molto. Certo che sì, no. Ma poi sono i P65, ho visto che sono anche stagni, per cui anche se puoi lasciare all'aperto non è nessun problema. Sì, sono stagni, sono per l'esterno proprio. Io ho visto che in pochi giorni che sono andato lì, dalla montagna che era alto più di me, adesso bacio, sono sempre vinnendi lì. Io pensavo che non ce n'erano più, poi sono andato perché era più basso la catastrofe di questi Farega. Lo so, altre volte ho portato delle offerte, bricome, noi abbiamo preso di quelle, cioè presente quei pannelli a LED che si mettono nel soffitto, sono, non dico plafoniere, sono sempre a LED, lisci, piatti che sono rettangolari, e allora messo in officina un paio di quelli, ma fanno una luce ed era un'offerta, o così abbiamo preso anche i neon, noi nelle cabine di verniciatura ci sono, dove spruzziamo i tubi a neon, i vecchi neon, li abbiamo messi tutti a LED, ma tu la luce che fanno, mai costava le 4,50 euro l'uno, meno di un tubo neon. Sì, ma io infatti qua sotto la veranda ho due plafonere a LED, e fate una luzzi, ma veramente è bella, e non consuma molto. Ma con questi affari qua non c'è bisogno neanche di accendere quelli lì. No, io ho 7 luci praticamente a corrente, sia quelle che ho messo a 60 centimetri, quel tubo vetrorisina e con la boccia. Ne ho 5 fuori di quelli lì, più 2 plafoniere a LED sotto la veranda, erano 7. Però ho detto no, voglio dire, mi piace molto fotovoltaico, quindi che non pago nulla, risparmio, a voi sì, Robè, che risparmio 2 euro, non me ne ha fatto nulla, però sempre risparmiato. Certo, però io sono il primo, è che io non abito in campagna, se abitassi come te mi avrei messo anche il coso, l'eolico, di tutto e di più, qualunque sistema che mi facesse risparmiare energia elettrica. Ho detto a mio fratello, ma perché non te la piazzi un bel coso solare? Lui, noi avevamo, che presente con la casa che abitava mio fratello, era finita nel 78-79, ed è stata la prima a Sassari e una delle prime in Sardegna che aveva messo mio padre il produzione di aria di acqua calda, come si chiama, quei pannelli solari però per la produzione di acqua calda, era la prima che avevano montato dalla Riello, erano venuti proprio apposta per noi, per dire, poi mio padre aveva fissato sempre queste cose eoliche, faceva, per mio fratello non ha cavato il dutto, infatti ha detto bello così, l'energia tanto già costa poco dove lui, perché lui c'ha il pozzo, autoclavi, tutto, e consumiamo di corrente. Se addirittura volevo mettermi in gruppo elettrogeno io, penso un po', si ricordo quelli lì, c'è il boiler, il pannello solare, sul tetto le mettono quelli lì. però ripeto, quello è buono lo stesso, perché la corrente ce lo sai quanto è salita, io ho pagato a poco la bolletta a 350 euro, e allora niente, qua bisogna escogitare qualcosa, e quindi ho trovato questa soluzione e tiro, sono soddisfatto, più che soddisfatto. Io me ne accorgo adesso, a dare del tempo, fra 2-3 anni, anche un anno, quanto risparmio. No, ma io adesso mi sto alzando la testa di metterci un po' di pannelli solari e sul tetto, almeno fatti, può essere 1000 watt per la stazione radio e cosa, ma almeno mi risparmio qualcosa. L'energia elettrica almeno non è più come prima, adesso devi stare attento quando accendi le luci, gli studiare chi sono, attaccare quello, prima invece è tutto acceso a casa, te ne fregate, adesso la mia figlia, cerca di stare attenta alla stufa, se devi accenderla, non tenerla troppo accesa, per dire due volte al giorno la vattrice, no? Allora vai 3 volte alla settimana massimo, no, 2 volte al giorno la lavatrice. Poi la notte si risparmiano dalla lavatrice. Ma a me invece c'è la bolletta alta, perché c'era quel periodo freddo, usavo il condizionatore piccolino io. E quello sono 2 kW che mi ha succiato un metro di luce. E purtroppo non mi funzionava il condizionatore che ho in casa, quello sono 300 watt, di picco sono 500, poi diventa 300, però automaticamente quello piccolino che io usavo, lo scaldabagno, cioè lo riscalda l'ambiente praticamente, è un condizionatore piccolino con telecomando, 2000 watt, e quindi l'ho tolto da lì dal bagno, l'ho messo in cucina, adesso gli aggancio, poi è andato fino alla bolletta, ho fatto associare 350 euro, sì, agito, boh. Adesso escogitiamo di eliminare troppo, queste bollette sono salite, però vabbè, è uno schifo, è una vergogna, troppo alte, non si può andare avanti così. Già lo so, io mi sono fatto a novembre, no, quando è partito, forse l'ho fatta a giugno, però la prima bolletta fosse arrivata a ottobre, e l'energia, e abbiamo preso l'offerta vincolata per 2 anni, i kilowatt ridotti, non dico che ho risparmiato il 50%, ma più o meno 40% l'abbiamo risparmiato, e poi abbiamo il vantaggio che il costo del kilowatt è vincolato per 2 anni. Adesso vabbè, è abbassato anche l'Enel, sono abbassate anche tutte le correnti, ma tu, se continueremo come l'inizio dell'anno, dell'anno scorso, roba di botta per il fatto dell'Ucraina, adesso meno male i prezzi sono stabilizzati, ma ci sono stati picchi di cose, di bollette più del doppio noi abbiamo pagato in officina. Me lo posso immaginare, io vedevo al telegiornale le bollette da 72.000 euro, ma chi c'ho macchi? Ma allora ecco perché chiudevano i ristoranti, c'è cosa la tengo a fare aperto? Bollette così alto, e poi devo pagare gli operai, l'assicurazione, Gita, che dazzo, la luce così alta, l'affitto, c'è il gestore di 2.000 euro, 3.000 euro, quanto pagava, più c'è bolletta alle stelle, e io le potevo capire benissimo che chiudevano, c'erano ragione. Si è alzato l'impicco, ma chi c'è il governo, voi per carità, abbiamo le soluzioni per l'energia elettrica, niente, purtroppo ci stanno assassinando. Io ripeto, se trovo a risparmiare anche per casa, ma non so se mi prendo proprio quei pannelli grandi grandi e mi posto l'energia anche per casa, così non tratto più nulla di cavo di contatore. Allora io c'ho un amico mio che è un SWL, appassionato di radio, no, di tutto e di più, di Doglianova, quello vive in campagna. Non è energia elettrica normale, tutto solare, tutto quello che c'è è tutto solare, e più c'è anche un generatore eolico, tutto quello che c'è, ma non da adesso, da anni questo qua, tutto con pannelli. Lui prende a blocco quelli di vecchia generazione che sono ingombranti, tanto in campagna, e ha riempito da tutte le parti di questi pannelli solari. Io ho un amico che ne ha rilevato un po' di questi, infatti mi sa che me ne posso dare una decina e me li attacco, almeno arrivare a un paio di kilowatt, 1,5 kW, sono di quelli francesi, roba buona, ne ho 2 di questi io, che me lo voglio mettere nel camper, però sono un po' pesantucci, sono quelli policristallino di vecchia generazione, diciamo come resa rendono meno di questi nuovi, però c'hanno di buono che bastano un filo di luce e caricano, e per quello c'hanno quello di, però sono pesanti e coso, però ne ha rilevato una marea, c'è anche le centraline perché hanno cambiato non so da dove un impianto grosso e li hanno sostituiti, c'è anche i sistemi di coso, di controllo di regolatore di carica, ti metti un po' di batterie, un inverter grosso e se andende. Infatti qua i padroni hanno il fotovoltaico, proprio i pannelli solari, giù, non so se hanno 12.000, ma loro, anche lei da lei nella corrente di giorno, mi sembra, di notte, per come funziona, non lo so, gli mandano l'assegno, non immagina, sai, bolletta, anzi hanno sempre un rientro. Io voglio informarvi, vabbè, lì a Bricome, quei pannelli che ho visto giganti, da 2 metri proprio, per un metro, quanto costano? Cioè, quanto costano? L'ho visto già 200-300 euro, non mi frega niente. Cioè, quanto danno di kilowatt? Perché se poco poco danno un kilowatt, un pannello, io ho fatto 13, ne compare giù 3 kilowatt sul cappuccio. Io mi faccio l'impianto fotovoltaico, non voglio più pagare niente, il contatore lo stacco, perché non si può, troppa corrente. Poi la tassa, poi la tassa, è che devo pagare la tassa quando io pago già, diciamo, i kilowatt che consumo, io ti metto l'IVA, io devo pagare la tassa per il contatore, ma stiamo scherzando, è un furto, va. Sì, dopo che di tasse, controtasse, accise, ma assurdi, sulla bolletta, consumo, per dire, 35 euro, poi spesa di trasporto, spesa di guido, accisa per non so che cos'è, va da 35 ci sale a 140, è una cosa assurda. Vabbè Tony, io ti lascio che mi guardo un po' di televisione così mi viene un po' di sonno e mi drombo, sono un bel stanco, dai. Ti saluto, grazie del QSO, grazie anche delle info che mi hai dato con le foto che mi hai mandato di questi coso. Prenderò visione e sicuramente le acquisterò, perché mi servono per discorso di sicurezza più che altro. Poi pannelli ci sto facendo anche un pensierino, dai. Ti saluto di nuovo, grazie, e saluto anche eventuali amici qua su canale 10 in ascolto. Ciao ciao. Ok, d'accordo, lo bene, anche io chiudo, dai, mi guardo un po' di TV e mi metto a letto. Ci sentiamo, mi ha fatto piacere anche a me, dai, sentirti. Grazie per il consiglio. Stammi bene, buon corretti, alle prossime. Ciao ciao. Chi è? Chi è che chiama? Boh, non ti sento. Come siete dolci voi maestri. Attenzione 10, chi c'è? Ho l'attenzione 10. Hai mangiato Giovanni? Sì, ti sento bene. Fa un passaggio 9,60. Sta andando bene. È giusto adesso. Poco fa, ma quando va a 9,30 è tutto quanto in conto, vedi? Adesso va bene. Adesso è perfetta l'antenna. E infatti, quel filo lì è tutto quanto incasinato, era. Ok, d'accordo. Nessun altro, vabbè, io tanto stavo cucinando in cucina, capito? Ci sentiremo, qui c'è un freddo qua, sai che avevo dimenticato per far uscire queste gattine qua. Avevo lasciato la porta finestra della cucina aperta e sentivo questo freddo in questa camera. Entro in cucina, è ancora aperta, il mio freddo. Beh, freddo, vabbè, non è che ci sia molto freddo la verità, comunque sia, ma comunque la vera, dove sei tu già entra, a destra, a sinistra già entra. Però dipende, no? Ho perso il filo. No, ma sai perché? Non è che ci sia freddo freddo, però io mi ero alleggerito stasera per uscire a piedi e fare delle commissioni, perché io mi accaldo terribilmente, anche per questa storia ormonale, mi viene un caldo da terribile, insopportabile. E quindi sentivo più freddo del dovuto per questa finestra aperta. Poi francamente di uscire oggi non me la sono sentito. Non avevo voglia di uscire di notte, ma volevo stare a casa tranquillo, cucinare l'ora che dico io, guardarmi quello che dico io, la TV, eccetera. Bene, Antonello, ci sentiremo in migliori occasioni, ok? Ciao, buonanotte, e saluto a Giovanna. Ehi, ciao Marco, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto. Alla prossima domani, là. Al limite ci sentiamo domani, non c'è problema. Guarda Antonio, usciresti bene, abbastanza bene, se non avessi questo terribile rumore di ventola, cos'è? È forte, mi. Se capì? Adesso non è più forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ma cos'è una ventola vera e propria? Ma è una turbina. La ventola di alimentatore cinese, più che altro, capito? Ah, come quello che ho io, quello piatto. Cacchio, sai che me l'hai ricordato? Io l'avevo messo in qualche cassetto, in qualche armadio, e siccome non lo accendo da mesi, adesso che me l'hai ricordato, che ce l'ho pure io buttato da qualche parte, è il caso di attaccarlo alla 220 e farlo andare un po', se i condensatori si rovinano. E poi come attaccato l'alimentatore, perché serve sempre, la verità. Quindi figurati, ma io ce l'ho, più che altro per riserva, ma c'ho anche l'altro, l'alimentatore grande, adesso quello lo voglio sistemare, quello modello vecchio, voglio cambiare tutti i condensatori, hai capito? Sistemarlo come si deve, non devo stare cazzo ogni volta che fa l'estate, che parte il ponte di iodi, dopo il ponte di iodi parte magari un condensatore, eccetera, eccetera, quindi devo stare ogni volta a riparare l'estate e mi sono già girato le balle. Non ci voglio mettere mano ogni volta che fa caso, capito? Quindi a un certo punto adesso lo voglio far sistemare bene, lo porto con un amico mio, mi faccio mettere altri 7-8 condensatori di quelli che sono, li faccio mettere, il ponte di Dio come si deve, con la ventola, l'affrezzato, perché così non può stare, ogni volta all'estate ho sempre gli stessi problemi, parte il ponte di Dio, va in corto perché assorbe troppo, scala come un coso, un montreno. Va bene, ok, ciao Antonio, ciao, chiudo. Ehi, ciao, ci sentiamo. A domani Marco.